Ad alta voce. Elio De Capitani legge Limonov di Emmanuel Carrer. Traduzione di Francesco Bergamasco. Ottavo. Mosca, Altai, 1994-2001. Vite parallele di uomini illustri, continuazione. Eduard e Salgenitsin hanno lasciato il paese nello stesso momento, la primavera del 1974, e vi fanno ritorno nello stesso momento, esattamente 20 anni dopo. Quei 20 anni, Salgenitsin li ha trascorsi dietro il filo spinato con cui aveva circondato la sua proprietà nel Vermont per tenere lontani i curiosi. Usciva soltanto per scagliare quegli anatemi contro l'Occidente che gli hanno valso la solida reputazione di avere un brutto carattere. Scrivendo 16 ore al giorno per 365 giorni all'anno, un ciclo di romanzi sulle origini della rivoluzione del 1917, al cui confronto Guerra e Pace è un esile racconto psicologico sul genere dell'Adolf. Non lo ha mai abbandonato la certezza di tornare un giorno da vivo in patria e di trovare tutto cambiato. Ed ecco che l'Unione Sovietica non esiste più e lui ha terminato la ruota rossa. Quel giorno è arrivato. Consapevole della rilevanza storica dell'evento, Salgenitsin non vuole che il suo ritorno sia quello di un esule qualunque. No, viaggia in aereo fino a Vladivostok. Prende il treno per Mosca, un treno speciale, un mese di viaggio, durante il quale si ferma nei paesi e ascolta le lamentele del popolo. Il tutto ripreso dalla BBC. È Victor Hugo che ritorna da Guernsey. È anche, va detto, Louis de Funès nel Nonno surgelato. E a Mosca questo grandioso ritorno viene accolto con indifferenza o ironia, l'eterna e immancabile ironia dei mediocri verso il genio, ma anche quella dei tempi nuovi, verso l'anacronismo che è diventato Salgenitsin, davanti al quale le folle si sarebbero prostrate 5 anni prima, quando Arcipelago Gulag era appena stato pubblicato e non pareva vero di poterlo leggere liberamente. Ma lo scrittore fa ritorno in un mondo in cui, dopo qualche anno di bulimia, la letteratura e soprattutto la sua non interessa più a nessuno. I russi ne hanno abbastanza dei campi di concentramento, le librerie vendono soltanto bestseller internazionali e quei manuali che gli anglosassoni chiamano how to, come dimagrire, come fare quattrini, come realizzarsi al meglio. Le chiacchiere nelle cucine, il culto dei poeti, il prestigio dell'obiezione di coscienza sono cose passate. I nostalgici del comunismo, Salgenitsin non ha idea di quanto siano numerosi, lo considerano un criminale, i democratici un ayatollah, gli appassionati di letteratura parlano della ruota rossa sghignazzando. Non l'hanno letto, nessuno l'ha letto. E agli occhi dei giovani, nel cimitero delle icone dell'Unione Sovietica, la figura di Salgenitsin quasi si confonde con quella di Brezhnev. Più Salgenitsin viene deriso, più Eduard se la gode. I capitani Lievitin, che gli hanno avvelenato la gioventù, sono fuori dai giochi. Il barbuto è sepolto sotto le sue stesse prediche e Brodsky è venerato dagli accademici e continua a rimasticare odi a Venezia. Gli fa quasi pena. Venezia, che trovata da vecchio rincoglionito. Sia per Brodsky che per Salgenitsin, la gloria è ormai alle spalle. Invece, pensa Eduard, per lui sta arrivando ora. Infatti, congedatosi dal suo passato in Francia, Eduard si è stabilito definitivamente a Mosca, dove si è reso conto di essere famoso. Dopo che Semyonov ha pubblicato L'epoca gloriosa, sono usciti altri suoi libri, i più scandalosi. Il poeta russo preferisce i grandi negri, Storia di un domestico, Diario di un fallito. È stata la scelta giusta. In Russia non avevano mai letto niente del genere e se ne vendono centinaia di migliaia di copie. I giornali, abbagliati dalla loro stessa audacia, moltiplicano i servizi su di lui. Eduard non delude le attese. Abita con Natasha in una specie di appartamento occupato, in un palazzo evacuato e non ancora ristrutturato, senza illuminazione nelle parti comuni e senza ringhiera lungo le scale. Lui e Natasha posano vestiti di pelle nera e con gli occhiali scuri in quello scenario dark che affascina i fotografi. In Francia, una simile immagine da rockstar sarebbe difficilmente conciliabile con quella di agitatore ultranazionalista. In Russia, no. Qui si può scrivere su un giornale che, periodicamente, rispolvera i protocolli dei savi di Sion ed essere anche un idolo dei giovani. Un'altra differenza tra la Russia e la Francia è che in Russia si possono vendere 200 o 300 mila copie di un libro e restare poveri. La terapia shock e la disorganizzazione della rete distributiva riducono i diritti d'autore di Edouard al minimo vitale. Ma lui in fondo se ne sbatte. Tra il denaro e la gloria sceglie la gloria, e anche se da giovane ha sognato di avere entrambi, ora sa che non è quello il suo destino. Edouard è frugale, spartano, disprezza gli agi, non si sente umiliato dalla povertà che è stata la sua compagna per tutta la vita, anzi, ne trae motivo di aristocratico orgoglio. Eppure, in mancanza di altri finanziamenti, sarà proprio con i suoi magri diritti d'autore che riuscirà a stampare il primo numero del giornale dei suoi sogni. In un testo assolutamente megalomane, scritto alcuni anni dopo, Edouard immagina come gli storici del futuro descriveranno quel momento cruciale della storia della Russia, la fondazione di Limonka, nell'autunno del 1994. Tutti, scrive, sosterranno di aver preso parte all'avventura, ma in realtà, nel piccolo ufficio occupato da Dugin, al giornale Savieskaya Rassia, c'erano soltanto il più grande scrittore e il più grande filosofo russi della seconda metà del XX secolo, Natasha, che scriveva articoli firmandosi con lo pseudonimo Margot Führer, qualche punk siberiano e alcuni studenti di Dugin che sbevazzavano discutendo di ortodossia, oltre al fedele Rabko, che si occupava degli aspetti organizzativi. Il tipografo lo hanno trovato a Tveri, città natale di Rabko. Lui e Edouard sono andati fin laggiù con il vecchio catorcio moldavo per ritirare le 5.000 copie del primo numero e si sono arrangiati alla bella e meglio per distribuirlo. Distribuirlo significava venderlo abusivamente e fare il giro delle stazioni di Mosca per lasciarne alcune copie sui treni che collegavano le grandi città di provincia. La speranza non era che qualcuno lo comprasse, ma che almeno lo aprisse, come si apre una bottiglia affidata al mare. Edouard racconta gli esordi del Partito Nazional Bolscevico e di Limonka come un'epopea entusiasmante, il cui secondo atto consiste nel riattare un insalubre scantinato dove il gruppo si trasferisce dopo essere stato cacciato dalla Savieskaya Rassia. Tutti si rimboccano le maniche. Tutti sarebbero i 5 o 6 fondatori storici, escluso Dugin, che come al solito si limita a incoraggiarli e a ispezionare i lavori una volta terminati. Sgomberano montagne di detriti, preparano il gesso per l'intonaco, riparano le perdite. Per quanto facciano, il luogo rimarrà umido e infestato da topi, ma presto il partito avrà una sede, che verrà chiamata il Bunker. Il Bunker, Margot Führer. Arrivato a questo punto, dubito che il lettore abbia davvero voglia di sentirsi raccontare gli esordi di un giornaletto e di un partito neofascista come un'epopea entusiasmante, e dubito anch'io di averne voglia. Tuttavia, la faccenda è più complicata. Chiedo scusa, non mi piace questa frase, non mi piace l'uso che ne fanno quelli che la sanno lunga, ma purtroppo spesso è vera. In questo caso lo è. La faccenda è più complicata. Oggi Zakhar Prilepin si avvicina ai 40, vive con la moglie e i figli a Nizhny Novgorod, dove dirige l'edizione locale di Novaya Gazeta, il giornale indipendente su cui scriveva Anna Politkovskaya. Autore di 3 romanzi, si trova nella fase di passaggio dal rango di giovane speranza a quello di autore affermato, sia nel proprio paese che all'estero. Il primo dei suoi romanzi parla della Cecenia, dove è stato soldato. Il secondo dei dubbi e delle indecisioni di un ragazzo di provincia che crede di dare un senso alla propria vita impantanata diventando un Nazbol, vale a dire un militante del Partito Nazional Bolscevico. Questo libro è nato dall'esperienza dell'autore e di amici suoi coetanei, perché da più di 15 anni Zakhar Prilepin è un Nazbol convinto. Del Nazbol ha i tratti tipici, è robusto, rasato a zero, indossa vestiti neri, porta Doc Martens, e con tutto questo è la dolcezza fatta persona. Bisogna stare attenti, lo so, ma dopo aver trascorso qualche ora con lui, sono disposto a giurare che Zakhar Prilepin è un uomo formidabile. Onesto, coraggioso, tollerante, uno che guarda la vita come guarda le persone, dritto negli occhi, non per sfida, ma per capire, e fin dove possibile, amare. Il contrario del rozzo fascista è anche il contrario del dandy decadente che si fa sedurre dall'iconografia nazista o staliniana. Nei suoi libri, che sono tradotti e che consiglio vivamente, Prilepin parla della vita quotidiana nella provincia russa, dei lavoretti saltuari, delle sbronze con gli amici, dei seni della donna che ama, del suo amore apprensivo e pieno di meraviglia per i figli. Racconta la crudeltà dell'epoca, ma anche i momenti di pura grazia che può riservare una giornata quando non si è distratti. È uno scrittore eccellente, serio e delicato, che si potrebbe, tanto per farsi un'idea, accostare al Philippe Jean degli inizi, ma a un Philippe Jean che sia stato in guerra. Ebbene, ecco che cosa racconta Zakhar Prilepin. Aveva 20 anni e si rompeva terribilmente le palle nella sua cittadina della regione di Ryazan, quando un amico gli prestò uno strano giornale, arrivato con il treno da Mosca. Né Zakhar né l'amico avevano mai visto niente di simile. Nessuno in Russia conosceva l'Idiot International, Actuel, Harakiri o le riviste underground americane, tutte influenze rivendicate da Edward. E c'era da restare a bocca aperta di fronte a quella grafica chiassosa, a quei disegni ributtanti, a quei titoli provocatori. Sebbene fosse un organo di partito, più che di politica, Limonka si occupava di rock, di letteratura e soprattutto di stile. Che stile? Quello fuck you bullshit e gesto dell'ombrello, il punk in tutto il suo splendore. Ora, dice Zakhar Prilepin, bisogna cercare di immaginarsi che cosa sia una città russa di provincia. La lugubre vita dei giovani, il loro futuro senza sbocchi e la disperazione che assale chi sia appena un po' sensibile e ambizioso. Bastava che un solo numero di Limonka arrivasse in uno di questi posti e capitasse in mano a uno dei ragazzi sfaccendati, imbronciati, tatuati, che strimpellavano la chitarra e bevevano birra sotto i loro preziosi poster dei Cure o di Che Guevara, ed era fatta. Ben presto furono in 10, 20, tutta la compagnia di poco rassicuranti sfaticati che ciondolavano nei giardinetti pubblici, pallidi, con i jeans neri strappati, gli usual suspects, i clienti abituali della stazione di polizia. Adesso avevano una nuova parola d'ordine e si passavano Limonka di mano in mano. Era una cosa loro, si rivolgeva proprio a loro. E dietro tutti gli articoli c'era quel tipo, Limonov. E Zakhar e gli amici cominciarono a leggere avidamente i suoi libri. E Limonov divenne insieme il loro autore preferito e il loro eroe nella vita reale. Aveva l'età per essere loro padre, ma non somigliava a nessuno dei padri che conoscevano. Non aveva paura di niente. Aveva avuto la vita avventurosa che fa sognare tutti i ventenni, ai quali diceva, cito, «Sei giovane, non ti piace vivere in questo paese di merda. Non vuoi diventare un anonimo compagno Popov, né un figlio di puttana che pensa soltanto al danaro, né un cechista. Sei uno spirito ribelle. I tuoi eroi sono Jim Morrison, Lenin, Mishima, Bader. Ecco, sei già un nutball». Bisogna capire, dice ancora Zakhar Prilepin, che Limonka e i Nazbol hanno rappresentato la controcultura della Russia, l'unica. Tutto il resto era menzogna e regimentazione e compagnia bella. Quindi è chiaro che potevano esserci tipi violenti, altri che il servizio militare aveva reso nervosi, o skin che andavano in giro con cani lupo e si divertivano a fare il saluto nazista per mandare in bestia le persone prilecni, per bene. Ma c'era anche quanto di meglio potessero dare le cittadine della Russia profonda, in fatto di fumettisti autodidatti, bassisti rock alla ricerca di compagni per formare un gruppo, gente che ci sapeva fare con i video, timidi che scrivevano poesie di nascosto, struggendosi per ragazze troppo belle e sognavano cupamente di compiere una strage a scuola e poi farsi saltare le cervella, come succede in America. I satanisti di Irkutsk, gli Hells Angels di Fiatka, i sandinisti di Magadan. I miei amici, dice piano Zakhar Prilepin, e si capisce che anche se ottenesse un successo planetario, con premi letterari, traduzioni e conferenze negli Stati Uniti, la cosa a cui tiene di più è rimanere fedele ai suoi amici, gli sbandati della provincia russa. Questi ragazzi, all'inizio c'erano soltanto ragazzi, erano poveri. Quelli che avevano un lavoro caricavano e scaricavano merci, spazzavano cortili, facevano i muratori o i custodi di posteggi dove uomini appena più vecchi di loro, più furbi di loro e che loro disprezzavano di tutto cuore, parcheggiavano schizzandoli di neve sporca 4x4 che costavano 50 anni di stipendio delle loro madri e dai quali scendevano berciando nei cellulari. Quando è crollato il comunismo, Zakhar e i suoi amici avevano circa 15 anni. La loro infanzia era trascorsa in Unione Sovietica ed era stata più bella dell'adolescenza e della prima età adulta. Quei giovani ricordavano con tenerezza e nostalgia il tempo in cui le cose avevano un senso. Il denaro non era molto, ma non c'erano nemmeno molte cose da comprare. Le case erano ben tenute e un ragazzino poteva guardare con ammirazione il nonno perché era stato il miglior trattorista del suo Kolkhoz. Aveva vissuto la sconfitta e l'umiliazione dei genitori, gente modesta ma orgogliosa di essere ciò che era, ridotti in miseria e privati anche dell'orgoglio. Credo che fosse soprattutto questo a riuscire insopportabile a Zakhar e a quelli come lui. In breve tempo vennero aperte sezioni del Partito Nazional Bolscevico a Krasnoyarsk, Ufa, Nizhny Novgorod. Un giorno arrivava Limonov, accompagnato da 3 o 4 dei suoi. Andavano a prenderlo tutti insieme alla stazione e poi dormivano una volta a casa di uno, un'altra dell'altro e passavano nottate intere a discutere e soprattutto ad ascoltare. Limonov parlava in modo semplice e immaginoso, con l'autorevolezza di chi sa che non verrà interrotto e una predilezione per gli aggettivi magnifico e mostruoso. Tutto era o magnifico o mostruoso. Limonov non conosceva via di mezzo e la prima volta che lo vide, Zakhar pensò: è un individuo magnifico, capace di atti mostruosi. Aveva letto tutto di Limonov, perfino i versi giovanili che esprimono, dice Zakhar, la freschezza primitiva di un bambino. Adesso però di un bambino Limonov non aveva più niente. La lunga corsa attraverso il mondo gli aveva tolto ogni illusione. Ciascuno deve impostare la propria strategia di vita, diceva Limonov, sul presupposto dell'ostilità altrui. È l'unica maniera realistica di vedere le cose e la miglior difesa dall'ostilità altrui è essere coraggiosi, vigili e pronti a uccidere. Bastava passare pochi minuti con lui, sentire l'energia che il suo corpo asciutto e muscoloso, sempre in tensione, emanava nella stanza, per essere sicuri che quelle doti Limonov le possedeva tutte. In compenso, non c'era in lui la minima traccia di bontà. Interesse per gli altri, sì, e una curiosità sempre desta, ma non bontà, non dolcezza, non un momento di abbandono. Per questo Zakhar, che ammirava Limonov, e per nulla al mondo avrebbe ceduto il proprio posto nella cerchia dei discepoli che lo attorniava, non si sentiva del tutto a suo agio con lui, mentre lo era con gli altri Nazbol, dei quali si fidava ciecamente. Questi ragazzi, che avevano soprannomi come Negativo, Sciamano, Saldatrice o Cosmonauta, erano ai suoi occhi le migliori creature del mondo, tanto leali e fidate quanto sfrontate e violente. Disposte a dare la vita per salvare quella di un compagno e a finire in prigione per le proprie idee. La morale dei Nazbol era l'esatto contrario di quella che imperava tutt'intorno, nel mondo corrotto e senza punti di riferimento che aveva preso il posto dell'Unione Sovietica della loro infanzia. Dopo averli conosciuti, Per parecchi anni Zakhar frequentò soltanto loro. Tutti gli altri gli sembravano superficiali e noiosi. «Sono stato fortunato», pensava. «Ho incontrato persone con cui sarebbe un onore morire. Avrei potuto passare tutta la vita senza conoscerle, e invece le ho conosciute. Sono contento». Zakhar ha incominciato ad andare a Mosca, che dopo tutto dista solo 400 chilometri da Nizhny Novgorod. Le prime volte non c'erano problemi, ma nel corso degli anni la repressione si è inasprita e i Nazbol di provincia hanno avuto la consegna di evitare i treni espressi, perché era necessario mostrare la carta d'identità allo sportello con il rischio di venire registrati nei database dell'FSB, come si chiamava ormai il KGB. La soluzione erano i treni locali, gli omnibus che permettevano di spezzare la corsa facendo tappa nelle varie città e sfuggire così ai controlli. Il viaggio durava 2 giorni e i Nazbol li passavano a ubriacarsi e dormire. Si muovevano in gruppi di 3 o 4, ragazzi foruncolosi con la carnagione pallida e le mani arrossate, in jeans, giubbotto e berretto nero, che la gente guardava di traverso. Mosca li intimoriva. Si sentivano poveri e provinciali. Avevano paura che la polizia li arrestasse nel metrò, paura delle ragazze belle e ben vestite alle quali non osavano nemmeno avvicinarsi. Così si affrettavano a raggiungere la fermata Frunzeskaya, nei cui pressi si trovava il bunker. Suonavano alla porta blindata, più volte cambiata perché più volte gli uomini delle forze speciali l'avevano rimossa con la fiamma ossidrica, prima di mettere a sacco il locale e portare via con la forza chi si trovava all'interno. La porta si apriva. I ragazzi scendevano la scala che li conduceva allo scantinato. Qui, finalmente, tiravano un sospiro di sollievo. Erano a casa. Nella descrizione di Zakhar, il bunker è una via di mezzo tra un laboratorio occupato da un collettivo di artisti, un riformatorio, un dojo di arti marziali e un ostello improvvisato per ospitare il pubblico di un festival rock. I manifesti e i dipinti che coprivano le pareti corrose dall'umidità raffiguravano Stalin, Fantomas, Bruce Lee, Nico e Velvet Underground, Limonov in divisa da ufficiale dell'Armata Rossa. C'erano un grande tavolo che veniva usato per i pasti e per preparare la maquette di Limonka, un impianto di amplificazione per i concerti, sul pavimento tappeti lisi, su cui i giovani sbarcati dalla provincia potevano stendere i sacchi a pelo e buttarsi a dormire dove capitava, tra posacenere pieni e bottiglie vuote, in un penetrante odore di uomini misto a odore di cani. Con l'andare del tempo sono cominciate ad arrivare alcune ragazze, e Zakhar osservava che erano o bruttissime o bellissime, vestite per lo più in stile punk o gotico. Tra i ragazzi dominavano i crani rasati, ma ce n'erano anche con i capelli lunghi e le basette, e persino alcuni con impeccabili acconciature da venditore di elettrodomestici. Nessuno si stupiva di nulla. Tutti erano ammessi e accettati così com'erano. L'unico requisito era non avere paura né delle botte né della prigione. In fondo alla grande sala c'erano 2 uffici. Quello di Dugin, confortevole, dotato di radiatore elettrico, arredato con tappeti e librerie che arrivavano al soffitto, e fornito persino di samovar, benché il filosofo vi si trattenesse al massimo qualche ora al giorno. E quello di Eduard, decisamente più spartano, benché spesso facesse anche funzione di alloggio. Scrittore famoso, oggetto di culto negli ambienti trendy di Mosca e San Pietroburgo, Eduard conosceva una quantità di artisti e di gente alla moda e tutti hanno frequentato per qualche tempo il bunker come a New York avrebbero frequentato la Factory di Andy Warhol. I militanti di base erano un po' intimiditi di fronte ai famosi musicisti rock, alle cantanti e alle modelle che si facevano strada fra i sacchi a pelo e i cani lupo per raggiungere il grande tavolo al quale il mio amico editore Sasha Ivanov ricorda di aver trascorso le serate più eccitanti degli anni 90. Lì si trovavano, racconta, persone che non si incontravano da nessun'altra parte. Giovani, originali, privi di cinismo, con gli occhi che brillavano di entusiasmo. Era un luogo incredibilmente vivo. I seguaci di Dugin, studenti fascisti con grosse cartelle o preti ortodossi antisemiti, non erano altrettanto glamour, anzi. Ma se Dugin era in vena e fiutava il pubblico giusto, allora il più grande filosofo russo della seconda metà del XX secolo si univa alla compagnia e ammagliava l'uditorio di artisti alla moda e rudi adolescenti di provincia con le belle storie del suo repertorio. L'eroico sacrificio dei kamikaze giapponesi, il suicidio di Mishima, la setta di paramilitari buddisti creata in Mongolia dal barone von Ungern Sternberg. Con la sua barba nera, le sopracciglia folte e la voce calda, Dugin tornava a essere l'affabulatore ispirato da cui Eduard era stato stregato. Purtroppo, il fascino così convincente che sprigionava dalle sue parole non si trasmetteva alla pagina scritta. Eduard, che si occupava praticamente da solo di Limonka, non osava rifiutare gli articoli aridi, astratti e noiosi che ogni mese il cofondatore e ideologo del partito gli passava con fare solenne, quasi gli stesse consegnando il sacro Graal. Dugin sembrava realmente convinto che quelle sue dissertazioni teoriche fossero la punta di diamante del giornale, il motivo per cui i lettori correvano a leggerlo. Non gli piacevano né il tono né la veste grafica di Limonka. Avrebbe preferito una di quelle grigie riviste di nicchia cui era abbonato, i bollettini parrocchiali dell'estrema destra europea. Più passava il tempo, più il solco fra i proseliti dei due uffici si approfondiva. Come i bramani guardano dall'alto in basso i paria, così i discepoli di Dugin guardavano l'orda di proletari reclutati da Eduard, amanti del rock e delle risse, poco toccati dalla gloriosa storia del fascismo, che anzi infastidiva i più sensibili tra loro. Era questo il caso di Zakhar, che odiava tutti quei riferimenti ai corpi franchi e alle squadre d'assalto, e non trovava molto divertente che Eduard chiamasse amichevolmente Dugin dottor Goebbels. Zakhar si è sentito piuttosto sollevato quando, a seguito di contrasti sempre più aspri, Dugin ha finito per lasciare il partito e fondare un centro di studi geostrategici, oggi florido e finanziato dal Cremlino. Basta Barmani. D'ora in poi si era fra paria e Zakhar preferiva così. Elio De Capitani ha letto Limonov di Emmanuel Carrer, traduzione di Francesco Bergamasco, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Jonathan Zenti, registrato da Raffaele Stefani presso Fonologie Monzesi, FM Studio, Monza, editato da Raffaele Stefani e Andrea Cerrato, copyright POL Editeur 2011, tutti i diritti riservati.